Radio 24 presenta Destini incrociati. Destini incrociati. Un programma di Giacomo Zito. A Destini incrociati seguiremo la vita di una donna che ha dedicato ogni istante della sua esistenza alla bellezza e alla gioia di vivere. Ha attraversato quasi un secolo, incontrando migliaia di persone, spesso cambiando la loro vita. Ma soprattutto, ha interpretato con il suo gusto personale l'intero movimento dell'arte contemporanea. Un gusto, il suo, che è diventato concreto, tangibile, indimenticabile, grazie a una straordinaria collezione di opere d'arte oggi a disposizione del mondo a Venezia. Il suo nome è Peggy Guggenheim. Com'è nata la passione per l'arte di una donna così straordinaria? C'è di mezzo un incontro con una persona altrettanto speciale. Questa è la loro storia. È il 14 aprile 1912. Si balla nel salone di prima classe del Titanic, la poderosa nave da crociera che sta completando la traversata inaugurale dell'Oceano Atlantico. Mr. Benjamin Guggenheim, 46 anni, si è imbarcato a Cherbourg, Francia, porto situato di fronte a Southampton, da dove il transatlantico ha salpato poche ore prima. Lo seguono l'autista personale René Pernod e il cameriere Victor Gilliot. In realtà il signor Guggenheim è accompagnato dalla sua amante, la cantante francese Leontine Aubin. Tutti sappiamo che il Titanic è destinato a terminare la sua corsa contro un iceberg e ad affondare, portando con sé centinaia di vite umane. Ma il signor Benjamin, così come gli altri passeggeri, è convinto del contrario. Il Titanic è inaffondabile. Benjamin Guggenheim negli Stati Uniti ha famiglia. Oltre alla moglie Florette, lo aspettano le figlie, la 14enne Marguerite Peggy e la piccola Barbara Hazel, di 9 anni. Il loro papà non arriverà mai in porto. Concede all'amante il posto sulla scialuppa, pensando che i danni dell'incidente sarebbero stati riparati con facilità. Quando apprende dell'inevitabile fine, si cambia d'abito insieme al cameriere Victor e afferma con flemma aristocratica: signor Guggenheim! Mamma! Questi sono per lei, signor Guggenheim. No, grazie. Mamma! Indossiamo il nostro abito migliore e siamo pronti ad affondare da signori. Però tradiremo un brand. Come ogni uomo del suo tempo, Benjamin Guggenheim ha una fede incondizionata nelle capacità umane e nella scienza, unite a un insopprimibile gusto per la vita bohemienne. Questo formidabile mix lo porta ad affrontare una morte eroica. Impossibile che una nave pensata per essere inaffondabile possa colare a picco. Tanto vale mettersi un bell'abito e bere un buon brandy. Quello che accade sul Titanic è fondamentale per la vita di Peggy Guggenheim, che perdendo il padre giovanissima si ritroverà alla continua ricerca di una figura che possa sostituirlo, senza riuscirvi. Ma la nostra Peggy è una donna tosta, capace di guidare il suo destino. Ha ereditato dal padre il gusto per la vita alla ricerca del bello. Le serve solo un'indicazione, un consiglio, la direzione, che grazie a un incontro chiave riuscirà a trovare. Peggy Marguerite Guggenheim nasce il 26 agosto del 1898 a New York da Benjamin Guggenheim e Florette Seligman. Famiglia ricchissima, quella dei Guggenheim, grazie all'attività di estrazione mineraria di argento, rame e acciaio. Da parte di madre, la ricchezza proviene dalle banche. Certamente alla giovinetta Peggy i soldi non mancano. Tuttavia non eredita una fortuna, solo $450,000. Beh, nel 1912 sono una cifra da capogiro comunque. Completati gli studi, si impegna in qualche lavoretto. Fa la commessa in una libreria di New York, dove conosce Lawrence Weil, artista dadaista squattrinato. Con lui Peggy, a soli 23 anni, nel 1921, si trasferisce in Europa. Vuole andare a Parigi, vuole rivivere le atmosfere che hanno inebriato il padre, vuole seguirne le orme, ripercorrere il suo cammino alla ricerca dell'amore. Mon père, fier de m'appeler comme lui. La figura maschile per Peggy Guggenheim è fondamentale. Ma il carattere di questa donna è indomito, capace di superare ogni avversità. La tragedia del Titanic è un ricordo lontano. Resta una grande eredità per la giovane, non solo economica. Il gusto per il bello. Era uno con molte facce. Eccolo qui. Desidera che li tiri tutti fuori, signorina? Sì. Ci vuole un po' di colore in questa stanza. Mettilo lì, nel guardaroba. Oddio, ancora quei dipinti fatti con le dita. Quelli sì che sono stati uno spreco di denaro. Tra il gusto per l'arte che ha Caledon e il mio c'è una piccola differenza. Io ce l'ho. Sono affascinanti, è come trovarsi in un sogno, nelle vicinanze. C'è verità, ma non c'è logica. Come si chiama l'artista? Qualcosa tipo Picasso. Qualcosa tipo Picasso? Non sponderà mai. Per Peggy, l'arte è certamente un richiamo. Le principali avanguardie arrivano da Est, ma ancor più della creazione artistica in quel periodo è il gusto per la vita che porta Peggy ad andare nella vecchia Europa, che sta cercando di riprendersi dopo la devastante Prima Guerra Mondiale. Un conflitto che ha cambiato completamente la geografia politica e gettato il continente in un'incertezza devastante. Il risultato sarà l'ascesa dei grandi totalitarismi, il nazismo e il fascismo. Nell'agosto del 1921, infatti, Adolf Hitler viene nominato Führer dal partito nazista tedesco. Nel novembre dello stesso anno verrà fondato il partito fascista in Italia. È l'inizio di un'escalation che porterà al secondo conflitto mondiale. Per Peggy la politica è lontana. È innamorata di Lawrence, che le chiede la mano dall'alto della Torre Eiffel, un luogo simbolo per la giovane, il luogo dove il padre ha lavorato negli ultimi anni quale responsabile della società incaricata di costruirne gli ascensori. Peggy sente il gusto della vita entrarle dentro e non vuole perderne neanche un attimo. Dopo la prima notte col nuovo compagno, Peggy scrive divertita. Penso che per Lawrence questa notte sia stata davvero dura, perché gli ho chiesto di fare tutto quello che è raffigurato negli affreschi erotici di Pompei. Peggy inizia così una vita sentimentale vivace e frenetica. Il rapporto con Lawrence porta due figli e una serie di frequentazioni artistiche nella Parigi degli anni venti. Siamo al Dom, caffè frequentatissimo a Montparnasse, Parigi. Peggy entra con Lawrence e si siede al tavolo con alcuni ospiti e amici. Louis Aragon, poeta, incantato. Harold Loeb, scrittore, anche lei in Europa? Piacere, Tristan Tzara, artista dadaista. Salve a tutti, mi presento, Peggy Guggenheim. Caffè frequentato da espatriati dall'America, rumeni, francesi, ispirati dalla corrente dadaista, il Dom diventa un luogo di appoggio e di incontri. Peggy non sa ancora cosa le interessa di quell'ambiente così cialtrone, divertente e confusionario. Il dadaismo è considerato un gioco fastidioso dall'establishment. È in realtà l'avanguardia del surrealismo, una corrente artistica che rivoluzionerà l'arte del XX secolo. Ma chi se lo può immaginare? Fino a pochi anni prima Peggy era una commessa di libreria. Oggi sta respirando l'aria che le permetterà di arrivare pronta all'appuntamento più importante del suo destino, l'incontro con un uomo che scoprirà il suo talento unico. Il marito di Peggy, Lawrence, è un uomo di eccessi, non solo per il fatto di aderire al movimento dadaista. Dedito all'alcol, inevitabilmente tempesta il rapporto di litigi e scenate di gelosia. Hanno due figli piccoli, ma il matrimonio è a un punto di svolta. Peggy non se la sente più di frequentare un uomo che non sa esserle di guida nella sua spasmodica ricerca di un equilibrio interiore. In questi anni l'americana, trentenne, gira per l'Europa con i piccoli bambini sempre circondata da amici. E si dice circondata anche da altrettanti amanti. Lo scultore Constantin Brancusi e gli artisti Marcel Duchamp e Man Ray sono tra i più assidui frequentatori. È a questo punto che arriva il secondo uomo della sua vita, John Holmes, un intellettuale inglese che incontra Peggy nel 1928, facendola subito innamorare con la sua acuta intelligenza. La relazione con John Holmes è destinata a una fine tragica, segnata anch'essa dall'abuso di alcol. L'intellettuale muore infatti a seguito di una banale operazione a causa degli effetti collaterali del bere. In America, nel 1933, cessa il proibizionismo, rinasce la voglia di divertimento, aprono i locali e i teatri, tra i quali l'Apollo Theater a New York, mentre i locali sopravvissuti alla Grande Depressione diventano il centro dello swing, come il Savoy, sempre a New York. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do Mentre in America si balla, in Europa si prepara un dramma assurdo e inimmaginabile. Il Führer ha preso su di sé entrambe le cariche di capo dello Stato e del governo. Sono allo studio le prime leggi antirazziali. Rom, zingari, neri, ma soprattutto gli ebrei entrano nel mirino del regime. È il vero dittatore, Hitler, in un discorso del 1934. Mentre il Führer infiamma le folle tedesche, in America Charlie Chaplin colpisce il potere con l'arma dell'ironia. Ehi, der Führer, sagt der Lärm, wenn so many of his hands straff, wenn der Blitzen sagt der Klütz, ehi, ich blei noch straff, mit der Ach. Chaplin, artista ebreo, è uno dei pochi che usa l'ironia per irridere un potere sempre più folle. Per gli ebrei è l'inizio di un destino tragico che inizia con l'esclusione dalla vita pubblica e la privazione della cittadinanza tedesca. Mentre Chaplin osserva i cambiamenti europei dagli Stati Uniti, Peggy, anche lei ebrea, vive tra la Francia e la Gran Bretagna. Si sente protetta dal passaporto americano e immersa in un ambiente artistico e creativo che basa sulla sovversione delle regole tutta la propria forza. Il dadaismo, l'astrattismo, il surrealismo sono argomenti apparentemente lontani dalla dialettica politica. Ma il regime non può tollerare dei linguaggi che non rappresentino l'ordine, la magnificenza del potere. In breve, diventeranno anch'essi oggetto di persecuzione. Non vi è spazio in quell'Europa per l'arte e la ricerca. Che fine faranno tutti i suoi amici, Duchamp, Ernst? Che ne sarà delle loro opere? Peggy Guggenheim è un vulcano di idee e di sensazioni. Non si cura della minaccia dei totalitarismi europei. È presa dagli avvenimenti inglesi, tra gossip e politica. Lei fa parte del jet set, come Wallis Simpson, scandalosa americana divorziata, la cui relazione con il re Edoardo VIII porta in quell'anno allo scandalo la Casa Reale Britannica. Alcune ore fa ho abdicato dal mio stato di re e imperatore. Ed ora mi è succeduto mio fratello, il duca di York, a cui le mie prime parole sono state di lealtà nei suoi confronti. Ho fatto questo seguendo il mio cuore. Tutti voi sapete le ragioni che mi hanno portato a rinunciare al trono, ma voglio che tutti sappiate che io non ho mai inteso dimenticare la patria e l'impero che per 25 anni come duca e come re ho cercato di servire con tutto me stesso. Peggy non è l'unica a suscitare le reazioni sdegnate dei ben pensanti. Nel 1937 è a Londra. Ha appena concluso la sua ultima relazione amorosa con Douglas Garman, scrittore comunista che la lascia per una militante operaia. La delusione è cocente. Ma Peggy non vuole battute d'arresto. All'amica poetessa Emily Holmes scrive: «La mia vita ha preso una piega così strana che non riesco a crederci. Vivere senza amore e senza un uomo ed essere comunque felice. È quasi troppo bello per essere vero». Peggy e gli uomini. Un rapporto complesso che si consumerà tra amanti, consiglieri, amici e collaboratori. Peggy sta affrontando la soglia dei propri 40 anni, conscia che un cambiamento importante nella propria vita sta per compiersi. Una sorta di svolta negli interessi e nelle passioni che la porteranno ad un futuro inimmaginabile. Serve solo una scintilla per fare esplodere la sua essenza altamente infiammabile. Le mie frequentazioni di letto sono solamente uno spettacolo collaterale. Il mio lavoro viene prima, insieme ai miei bambini. Entrambi sono al centro della mia vita. Tutti hanno bisogno di sesso e di un uomo. Ti rendono viva, amabile, femminile. Gli uomini mi stimolano, ma grazie al cielo adesso ho la forza per stare in piedi da sola. Saranno le ultime parole famose. Un uomo sta per entrare nella vita di Peggy Guggenheim, un uomo che appartiene a un altro mondo. Schivo, introverso, solitario, ma giovane, attraente, maledettamente bello. Dall'incontro con quell'uomo, Peggy che ha maturato tutte le esperienze per trovarsi pronta all'appuntamento della sua vita, trarrà la forza per capire quale sarà la sua strada e in che direzione rivolgere i suoi interessi. Ancora una volta il destino, che si manifesta solo apparentemente in modo casuale, dimostra di seguire una logica ben precisa. È il giorno successivo al Natale 1937. Peggy viene invitata a un pranzo da Helen e Giorgio Joyce, presente anche James e un giovane amico del padre scrittore. Peggy, certamente più interessata alla conversazione con James Joyce che ad altro, viene immediatamente colpita dal giovane invitato. Era un irlandese alto e magro, di circa 30 anni, con enormi occhi verdi che non ti guardavano mai in faccia. Indossava occhialini e dava l'idea di essere sempre lontano con la mente, a risolvere problematiche intellettuali. Parlava raramente e non diceva mai cose stupide. Vestiva molto male, con un tight di fattura francese e non pareva curarsi del suo aspetto. Era un intellettuale puro. Per la sera, il gruppo si reca al ristorante Fouquet, nel cuore degli Champs-Élysées. È un ambiente sofisticato e affascinante. Al termine della serata, l'uomo dagli occhi verdi chiede a Peggy di accompagnarla a casa e poi di seguirla in camera. Peggy lo lascia fare, ne è attratta. Poi di recente ha teorizzato il suo nuovo rapporto con gli uomini, fatto di sesso e indipendenza. Crede che sia tutto sotto controllo. Quest'uomo entrerà nella sua vita, oltre che nel suo letto, per un'intera settimana, ascoltando con lei musica, parlando d'arte, facendo l'amore, cambiando completamente la vita di Peggy Guggenheim. Quell'uomo è Samuel Beckett. Samuel Beckett. I've got you under my skin. I've got you deep in the heart of me. So deep in my heart that you're really a part of me. I've got you under my skin. Destini incrociati. A Destini incrociati, una donna che mangia la vita a morsi, Peggy Guggenheim, sta scoprendo la vocazione che la renderà famosa in tutto il mondo. Si sta trasformando come una crisalide, da capricciosa ricca ereditiera, dedita alla vita mondana e un po' dissoluta degli ambienti bohemien di mezza Europa, a professionista e imprenditrice, in grado di cambiare la percezione dell'arte. Lei non lo sa ancora, ma a quasi 40 anni ha incontrato l'uomo che le aprirà gli occhi sulla sua futura strada. Quell'uomo è ancora sconosciuto, ma anche lui ha davanti a sé un destino straordinario. Si chiama Samuel Beckett. Andiamo a scoprire chi è. Samuel Beckett nasce il 13 aprile 1906 in Irlanda, a Fox Rock, un piccolo centro vicino a Dublino. Frequenta la stessa scuola di Oscar Wilde. Benché si interessi a diverse discipline, tra cui quelle sportive, in particolare il cricket, il giovane manifesta già subito un malessere interiore che diventerà compagno di tutta la vita. Depressione, solitudine, scarsa propensione a socializzare. Tutte caratteristiche che non gli impediscono di mietere vittime tra le donne che cadono ai suoi piedi puntuali come mele mature. La figlia di James Joyce, Lucia, la cugina, Peggy Sinclair, Suzanne de Chevaux-Dumesnil, che successivamente diventerà la moglie. Nel 1937 Beckett è uno scrittore squattrinato che venera James Joyce come un padre. Del resto non si cura. Scrive saggi, critiche, si impegna in traduzioni dall'inglese. Sta facendo la necessaria palestra di esperienze per fare il grande salto, che arriverà solamente dopo la Seconda Guerra Mondiale. Nel frattempo c'è l'alcol, ci sono le donne, c'è soprattutto se stesso. E da qualche giorno anche Peggy Guggenheim, conosciuta una sera al bistrot Fouquet sugli Champs-Élysées. I due si abbandonano a diversi giorni di amore e convivenza, nei quali Beckett riesce a mettere ordine nei pensieri confusi ma così forti, carichi di energia, di Peggy, che si confida con l'amante. Non so cosa fare. È necessario che trovi un lavoro. Negli ultimi 15 anni non sono stata altro che una moglie. Il suo interessamento per l'arte merita di più, insieme alla consapevolezza che ogni minuto speso per gli artisti che ama è certamente ben speso. Beckett la ascolta e la consiglia. Quello che stai facendo nell'arte contemporanea è giusto. L'arte contemporanea è la sola che meriti la tua attenzione. Bisogna accettare l'arte dei nostri giorni, perché è qualcosa di vivente. Parole che pesano, quelle di Samuel, vero disinteressato testimone di quello che stava accadendo in Europa, sia nell'arte che nella società. Beckett, infatti, non ha quadri da venderle, non rappresenta artisti, ne è solo amico, in particolare di Duchamp, col quale passa ore a giocare a scacchi. Peggy è illuminata dalle parole di Beckett, che trova energetiche e vitali. In realtà il suo destino era chiaro, bastava vederlo da un'altra prospettiva. Samuel Beckett c'è e non c'è. Non è l'uomo che passa a prenderla tutte le sere, anzi, ciò che conta per lui è la scrittura. Ancora sono lontani i successi della trilogia, con la quale sovverte le regole del romanzo, il teatro dell'assurdo, di cui diventerà maestro. Ma è anch'egli parte di quelle avanguardie che tanto consiglia Peggy. Per quanto è innamorata, Peggy ha capito a cosa dedicare il suo tempo e anche il suo denaro. Si getta così anch'essa nel lavoro e immediatamente, a Londra, ha deciso. Aprirà una galleria d'arte contemporanea. Che ebbrezza! Gli anni 40 sono alle porte. Peggy sta inaugurando una sua galleria a Londra. Fa avanti e indietro con Parigi, ascolta il jazz americano e pensa: sì, questa è vita. La vita di Peggy Guggenheim. Peggy sta seguendo il suo vernissage londinese. La lista degli invitati, gli artisti esposti. Gli uomini la trovano attraente per la sua energia e le sue idee. Beckett intanto si è innamorato di un'altra donna. Ma lei pensa ad altro adesso. Incontra a ripetizione Marcel Duchamp, l'amico della vita, e Vassili Kandinsky, pittore già affermato. È immersa nei preparativi della sua galleria. La battezzerà Guggenheim Jeune, giovane. Un nome che certamente fa riferimento alla galleria ben più importante dello zio Solomon, a New York. A questo proposito, lo stesso Kandinsky le chiede di intercedere presso lo zio per l'acquisto di alcuni quadri. Peggy supera il timore reverenziale nei confronti dello zio e gli scrive una lettera, nella quale offre al museo i quadri di Kandinsky appartenenti alla sua collezione. La risposta, vergata dall'amante di Solomon Guggenheim, la baronessa Rebé, è bruciante. Cara signora Guggenheim, Jeune. Prima di tutto noi non concludiamo affari con i mercanti, perché i grandi artisti mettono in vendita le loro opere direttamente. E in secondo luogo la sua galleria sarebbe l'ultima cui la nostra fondazione ricorrerebbe. È estremamente spiacevole vedere usato per motivi commerciali il nome Guggenheim, ora che nel mondo dell'arte ha assunto il valore di un ideale. Peggy se la prende a morte con la donna e questo le dà ancora più forza. D'altronde il suo segreto sono le innumerevoli relazioni con gli artisti più importanti dell'epoca. Marcel Duchamp, Pierre Mondrian, Vassili Kandinsky, Man Ray, Max Ernst, Salvador Dalí, Fernand Léger, André Breton, René Magritte, Alberto Giacometti. La lista dei pittori e degli artisti si accresce. Peggy consuma parte dei suoi soldi, ma non una fortuna. Spenderà in tutto una cifra intorno ai $100,000 per una collezione inestimabile e senza tempo che distribuirà tra Parigi e Londra. D'altronde, gli artisti che frequenta non sono ancora noti e lei si affida unicamente alla propria sensibilità. La sua lista, pensando che allora era di emeriti sconosciuti, è sconvolgente. Giacomo Balla, automobile e rumore $100. Constantin Brancusi, uccello nello spazio, scultura, $1,000. André Breton, ritratto dell'attore, poesia, oggetto, $300. Marc Chagall, ricordi della fattoria, olio su tela, $1,200. Salvador Dalí, mucca spettrale, $175. Marcel Duchamp, uomo triste nel... Sono le cifre che Peggy, girando per il vecchio continente, riesce a spuntare per formare la base della sua stupenda collezione. Ormai è lanciata. La galleria Jeune perde ogni anno un mucchio di soldi. Per Peggy è arrivato il momento di scegliere. Quando ho realizzato che la galleria perdeva 700 sterline all'anno, ho pensato che avrebbe potuto perderne molti di più, ma per una causa molto più seria e stimolante. Nasce così l'idea di un museo. Anche lei come lo zio Solomon, anche lei finalmente con la possibilità di dare un contributo importante all'arte e con essa di passare alla storia. Peggy non se ne cura più di tanto. Ogni cosa che fa è una specie di gioco. È la fine degli anni 30. Soffiano venti di guerra. Come il suo recente acquisto di Giacomo Balla, automobile e rumore, lei sfreccia per le strade parigine a bordo di una convertibile rossa. Tutti la notano. È Peggy Guggenheim. Riding along in my automobile, my baby beside me at the wheel. I stole a kiss at the turn of a mile, my curiosity running wild. Cruising and playing the radio with no particular place to go. Riding along in my automobile, I was anxious to tell her the way I feel. Destini incrociati. Destini incrociati quest'oggi esplora la vita di Peggy Guggenheim, fino a 3 anni prima ricca ereditiera annoiata. Il giorno di Natale del 37 ha incontrato a Parigi un uomo che in 12 giorni di sesso, chiacchierate e accese discussioni le accende una passione che rappresenterà la sua futura vocazione: seguire il proprio gusto per il bello e indirizzarlo su una collezione d'arte contemporanea mai vista prima. Quell'uomo è Samuel Beckett. Ha solo 30 anni, ma ha già il carattere e la complessità che lo porterà verso una carriera incredibile. La vita di Peggy, grazie a quell'incontro, assume una svolta inattesa. La donna dei mille capricci, che colleziona quadri così come gli uomini, diventa un riferimento per il mondo dell'arte. Ma l'Europa sta velocemente cambiando. È arrivata la guerra e Peggy è ebrea nell'Europa occupata dai tedeschi. Peggy deve in tutta fretta nascondere la sua collezione parigina. I tedeschi sono ormai alle porte della capitale francese. Il Museo di Arte Moderna di New York le concede un affidavit. Si tratta di un lasciapassare. Ma lei è pur sempre ebrea. E non è detto che quel documento le permetta di espatriare. Peggy, sprezzante del pericolo, continua ad alimentare la sua collezione. Il giorno in cui Hitler fece il suo ingresso in Norvegia, entrai nello studio di Léger e comprai uno splendido quadro del 1919 per $1,000. Ma non può durare. Peggy deve impacchettare tutto. Mettere i quadri nel fondo di bauli, nascondendoli sotto vestiti e biancheria. Ma non ci sono solo le opere da salvare. Adesso le sue relazioni con gli artisti valgono molto di più. E molti di essi sono ebrei, come lei. Li deve salvare. Max Ernst, André Breton, tutti imbarcati in un volo Pan American per gli Stati Uniti. Samuel Beckett, intanto, il giovane scrittore che ha indicato a Peggy la sua strada di collezionista, combatte la propria guerra. Ha deciso, non sarà in Inghilterra a servire la causa, ma in Francia, dove aiuterà la resistenza. Per questo verrà decorato dalle autorità della Francia liberata con la Croix de Guerre. Il mio lavoro durante la resistenza? È stato solo un gioco da Boy Scout. Beckett ormai scrive unicamente in francese, perché sostiene gli permette di alleggerirsi dello stile letterario e di avvicinarsi al minimalismo. Negli anni successivi sarà la volta dell'uscita dell'opera teatrale Aspettando Godot e il suo Teatro dell'Assurdo, un'opera teoricamente impossibile, in cui non accade nulla, benché gli spettatori rimangano incollati ai loro posti. Di lì a qualche anno, lo scrittore riceverà il premio Nobel per la letteratura. Il drammaturgo e scrittore irlandese e la collezionista americana sono ora agli antipodi. Non solo geograficamente. Peggy è in America. Adesso il centro dell'arte surrealista e astratta è lì, nel Nuovo Mondo. Nel 1942 apre a New York la galleria Art of This Century, l'arte di questo secolo. E diventa un caso sulla bocca di tutti. In quella galleria aiuterà ad esporre Jackson Pollock, già guardiano al Guggenheim Museum dello zio Solomon. Pollock la ripagherà della fiducia donandole opere straordinarie e monumentali, tra cui un dipinto di 6 metri, per realizzare il quale inaugurò una tecnica originale che prevedeva la stesura del colore con il corpo. L'America, dalla quale Peggy è stata lontana per così tanti anni, la accoglie da trionfatrice. Gli artisti americani sono la nuova avanguardia e Peggy ancora una volta ha anticipato le tendenze. È al posto giusto, al momento giusto. Inoltre, lo spazio è animato, divertente. Oggi diremmo interattivo. Per vedere le opere di Duchamp si guardava attraverso un muro e si faceva girare a mano una ruota a forma di ragno. Peggy, dopo 20 anni trascorsi in Europa, resta negli Stati Uniti il tempo necessario perché i pericoli della guerra cessino definitivamente. È in Europa dove si compie il suo destino ed è in Europa che tornerà, non appena la guerra sarà finita. Sarà il 1948. Un bel giorno per Peggy. Alla radio impazza una canzone che celebra la felicità di un giorno meraviglioso. La colonna sonora di un film Disney, Song of the South, che verrà cantata da tantissimi artisti, dal 1947 fino ai giorni nostri. Peggy ha in mente di tornare in Europa, come abbiamo anticipato. L'occasione viene da un invito alla Biennale di Venezia per colmare il vuoto del padiglione della Grecia, che per i postumi della guerra non può prendere parte alla mostra. È così che Peggy Guggenheim parteciperà alla Biennale con un padiglione tutto suo, accanto a quello delle nazioni europee. È il 1948 e l'Italia sta vivendo una stagione artistica senza precedenti. Peggy non è la sola a volere l'Italia. In quell'anno un'altra americana famosa decide di venire nel bel paese rinunciando a una carriera straordinaria nel cinema hollywoodiano. Ingrid Bergman. Intanto la Guggenheim vorrebbe trasferirsi a Venezia con tutta la collezione, ma ha un permesso di esportazione temporanea. Dovrebbe pagare il 15% del valore delle opere. Allora avvia con lo Stato una trattativa, la cessione allo Stato italiano della sua collezione, dopo la sua morte, in cambio dell'abbuono della tassa. I ministeri di allora non accettano. Così la Guggenheim paga la tassa e si tiene la collezione. Inizia così la storia italiana di Peggy Guggenheim. Gli italiani non accettano le sue stravaganze, lei non accetta gli italiani, ma acquista un intero palazzo a Venezia per abitarvi e ospitare la sua bellissima collezione. Un palazzo settecentesco, Palazzo Venier dei Leoni. L'ingresso per il pubblico è gratuito. La gente viene soprattutto per incontrare lei. Tutti possono visitare la galleria nei giorni in cui è aperta, ma alcune persone pensano che io sia compresa nello spettacolo. Negli anni 70 l'arte diviene improvvisamente popolare e questo permette a Peggy di vivere degli incassi e della vendita dei cataloghi. La collezione viene donata alla Fondazione Solomon Guggenheim, con la condizione che resti a Venezia. Compiuti gli 80 anni, nel 1978, Venezia la festeggia all'Hotel Gritti. La accoglie una grande bandiera col suo nome e la scritta «All'ultima dogaressa». La sua Venezia l'ha accettata. Peggy adesso appartiene alla città del mondo. Destini incrociati. Destini incrociati. Testi di Morena Rossi e Simone Spoladori. Redazione Chiara Santilli e Isabella Marini. Adattamento radiofonico di Giorgio Bacco. Questi destini si incroceranno di nuovo questa sera alle 23, qui su Radio 24.